A Bologna sono le 16:05 appena scoccate, il nostro numero è 333 180 94 94, ma le 16:05 lo sono anche a Milano, dove c'è Ginevra che mentre beve il caffè, forse avrà finito di berlo, è pronta a chiacchierare con noi. Noi le diamo il benvenuto a Fujiko Factory. Ciao Ginevra! Ciao Radio Fujiko, appena finito il caffè. È finito, così. Ciao Ginevra! Confermo. Te l'abbiamo fatto andare di traverso, no? No, è andato tutto a posto. Hai avuto il tempo per finirlo con calma. Tutto finito. Ma con il caffè hai preso anche il biscottino o senza biscottino? No, qua non c'è niente da mangiare. Ok. La mia cucina, il mio frigo è ancora vuoto, sono tornata da 2 giorni, quindi devo ancora fare la spesa come si deve. Allora, fuori onda, Ginevra mi ha detto che era 2 giorni e è tornata da Londra. Quindi sei tornata da pochissimo. Wow. Sì, sono tornata adesso dall'Inghilterra. In realtà non ero proprio a Londra, ma ho fatto qualche giretto. Ok, scusami, avevi detto no. Inghilterra, vabbè, io ho capito Londra. Oggi non sono tanto sveglio di cervello. Ginevra, che con noi al telefono, è l'autrice del pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è Lips, che è un pezzo che ho scelto personalmente perché mi piace molto, perché è un pezzo, uno, che mi piace, e due, anche perché è un po' diverso da quello che passiamo solitamente. Ha un bel respiro internazionale, secondo me, quindi bravo. Grazie. Ginevra, l'ho ascoltato e mi è piaciuto subito, e allora ho detto facciamo due chiacchiere con Ginevra. Però devi sapere che noi solitamente poi parliamo di tutto tranne che dei dischi, delle canzoni, di tutto, vanno okay. Tutto in secondo piano di solito. Sono pronta. Io ti chiedevo questa cosa del biscottino nel caffè perché io, siccome ho un problema con il caffè, no? Mi viene bruciore di stomaco se lo bevo, okay. Non sempre, però di solito sì. Allora, per cercare di non farmi venire il bruciore di stomaco, mangio un paio di biscottini con il caffè. Gardini, ti risulta bene questa cosa? A te? A me no. A te non ti risulta. A te, Ginevra, ti risulta? Ma io devo dirti che in realtà anche soffro un po' di bruciore di stomaco, ecco. Però in realtà ho appena finito pranzo, anche se sono le 4, quindi questo è il caffè post pranzo. Bravo, ecco, questa è un'ottima combo. Non dovrebbe venirmi questa volta. No, dovresti essere sicuro, anche io cerco di prenderlo subito dopo il pasto, così riduco il rischio di avere bruciore di stomaco. E il pezzo che abbiamo ascoltato si chiama Lips, invece, tornando un attimo alla canzone, il titolo è Labbra. Giulia, a te cosa viene in mente con labbra? Beh, labbra, baciare. Tanti bacini. Sì. E a te cosa viene in mente, Andrea? A me viene in mente. Allora, a me viene in mente quella volta. Sì. Che Rita. Rita? Rita era questa ragazza che veniva in vacanza nel mio paese, no? Okay. E lei era molto bella, io ero molto brutto. Però una sera non si sa come finimmo a limonare. Sì. I miei amici ancora se la ricordano quella cosa, perché ancora dicono non è possibile. E Rita poi a mare con gli altri ragazzi disse: no, Andrea ha veramente delle belle labbra. Quindi, anzi disse perfetto, per un'idea perfetta per il videoclip di questa veniamo io e Rita. Chiamiamo Rita e poi parte Lips. E Rita disse, scusate la citazione, Rita disse: Andrea ha delle belle labbra carnose. Questa è la citazione che è rimasta negli anni. Invece sì. Ginevra, tu a partire da cosa hai scritto Lips? Oddio. Allora, con chi è limonato che ti ha fatto venire in mente Lips? No, queste cose non si dicono. Okay, giusto. No, allora Lips in realtà non c'entra niente, cioè sì, parte dicendo citando un bacio, però non è partita più dal bisogno appunto di parlare di questo primo periodo di una relazione in cui hai paura comunque di buttarti completamente e quindi sei un po' legato e vincolato. Il pezzo più o meno parla di questa cosa, quindi effettivamente non ero partita da un aneddoto. Ok. Sui miei baci. Perché tu giochi un po' sul sicuro sulle relazioni, cioè stai un po', ci vai un po' con i piedi di piombo. Ah, ok. Beh, sul sicuro no. Okay. Anche perché l'EP che uscirà si chiama Ruins. Quindi ci fai già capire com'è andata a finire. Però ci vai piano, com'è? Ma fai? Non lo so se riesco ad andarci piano in realtà. Vorrei, però sono molto istintiva e molto emotiva anche. Quindi okay. Se parte, parte. Quindi ok, Okay. Magari andassi piano. Vabbè, dai, si impara. Sei del 93, sei così giovane, quindi si impara. A me conviene dirti che sei giovane perché sono del 92, quindi alla fine se sei così giovane, tu lo sono anche io. E stavo pensando che non ci eravamo sentiti mai prima di oggi, la prima volta che ci sentiamo al telefono e anche via mail, io ho sentito il tuo ufficio stampa, però sei proprio come ti avevo immaginato ascoltando il pezzo. E quindi? Come? Cioè, molto molto tranquilla, molto placida, calma. Ti avevo immaginato così ascoltando l'Ips. Meno male, almeno è tutto coerente. Penso se avessi avuto i capelli sparati. No. Non l'avremmo scoperto comunque. Sì, infatti. Cioè, abbiamo visto la foto, anche perché poi l'abbiamo pubblicata sui nostri canali social, però mi ero fatto questa idea della tua persona, che fossi una persona molto riflessiva, pacata, calma, con questo tono di voce basso e aspettativa rispettata, ecco. Quindi non so, era perché poi alla fine una calma. Sì. È una bella qualità, c'è un sacco di gente in giro che è agitata, io forse sono il primo. Ma quindi tu, Ginevra, ti senti di essere calma o no? Ma infatti mi fa sorridere questa cosa. Beh, ho dei momenti in cui sono molto calma e dei momenti in cui non lo sono. Diciamo che soprattutto quando scrivo, comunque nella mia musica, la mia musica riflette un lato della mia personalità che sicuramente ha bisogno di rifugiarsi nella musica, appunto, e quindi è anche un po' calmo, però come tutti ho i miei alti e bassi, ecco. Vabbè, quello assolutamente non lo mettevamo in dubbio. Ginevra, sono molto attiva comunque. Non so. Ma infatti non volevo dirti che sei una pesantona, dicevo solo che questo tono calmo nella conversazione, che è una cosa che apprezzo molto. Bene, ci sei piaciuta, dai. Sì, anche perché quando becco una persona calma ho più spazio per parlare io, perché io parlo tanto, parlo veloce, quindi esatto. Mi conviene anche trovare una persona calma. Ginevra, grazie di tutto e a presto. Grazie a voi, a presto. E ci risentiamo per il prossimo singolo a questo punto. Perfetto. O per quando esce l'album. Molto piacere. Dai, bocca al lupo. Vai, dici pure. Inizio marzo. Bene, vedremo bene. Ancora la giornata da stabilire. Va benissimo, ci teniamo in contatto allora e sappiamo quando esce il tuo album. A presto, Ginevra. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Ciao.